1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18. Eccoci, cari ascoltatori, siamo pronti con la lettura del giornale e parlare poi di, insomma, di questo DEF. Cercheremo di renderlo un pochino più digeribile, perché sono questioni anche molto tecniche. Vabbè, intanto c'è Renzi, un minuto prima che andassimo in onda, alle 6:30, perché noi razza di debosciati siamo in onda dalle 6:30, anche se voi vi siete aggiunti solo ora, ma vi abbraccio comunque e siete i benvenuti. Ebbene, alle 6:30 Renzi ha twittato: alla faccia dei gufi, no? Il DEF fa pagare chi finora non ha pagato. E il Presidente del Consiglio, insomma, che ha questo atteggiamento alla faccia dei gufi. Parleremo di questo DEF, avremo con noi l'onorevole Simona Bonafè del Partito Democratico, avremo l'ex sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo. Questa alle 8:15, ora andiamo a sfogliare proprio i giornali che parlano di questi provvedimenti, soprattutto in primo piano, e anche di gufi, perché il Corriere ha intervistato proprio Renzi e parla così di gufi in agguato. E allora, è mercoledì 9 aprile, i titoli, il Sole 24 Ore, cuneo fiscale, nuova tassa sulle banche. Questo è certo il provvedimento più a sorpresa che è spuntato nel DEF. Sgravi IRPEF per 6,7 miliardi, tagli agli stipendi dei manager. Per il Corriere della Sera, come sarà il bonus in busta paga? Questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, stangata su banche e manager, spending review da 4,5 miliardi. La Stampa, taglio IRPEF, banche più tassate. Il Fatto Quotidiano, Renzi, ho trovato gli 80 euro, ma cresciamo meno della Grecia. Questa purtroppo è la verità certificata dal Fondo Monetario Internazionale. Il Messaggero, meno IRPEF, più tasse sulle banche. L'Unità, gli aiuti ci sono, la crescita no. Mentre pagano pure le banche, il titolo del Secolo XIX, per avvenire più soldi dalle banche, un aiuto ai più poveri. Il Manifesto invece, se taglio seguitemi. Il governo approva il documento di economia e finanze, c'è Renzi in primo piano. Il Giornale invece la mette sulla questione Berlusconi, le firme di Libertà, migliaia di cittadini chiedono l'agibilità politica di Berlusconi. Libero invece, il Fondo Monetario vede nero, ma Renzi si fa il salva Firenze. Questo è il titolo di prima pagina. Nel decreto scritto per Roma c'è un emendamento che sana sperperi per 50 milioni avvenuti nel capoluogo toscano dal 2007 al 2012. Questa è l'accusa di Libero. Allora, voglio però partire poi di questo documento, parleremo approfonditamente. Voglio partire da che cosa? Da un gran classico. Arriva ogni anno il test di medicina, l'ingresso a medicina, c'è stato ieri, e il gran classicone. Arrivano le polemiche perché tra domande centrate sull'argomento medicina e affini ci sono anche le classiche domande, no, che fanno arrabbiare i futuri medici alle prese con Chomsky e i voli low cost. Chomsky e Noam Chomsky, linguista. In 65.000 i test per 10.000 posti negli atenei, e questo era il titolo del Corriere della Sera, quello su Chomsky, ma anche su Il Giornale: test di medicina, caos e mal di testa, segnalate centinaia di irregolarità, studenti in rivolta, domande impossibili. Ce n'era anche una sulla Costituzione italiana, selezioni sbagliate. E vabbè, ma sono i titoli che ogni anno si ripetono. E anche quest'anno Giuseppe Remuzzi sul Corriere della Sera fa un corsivo polemico a dire, a pagina 21, inutili rompicapi che non scelgono i migliori. Questo è il titolo. Remuzzi scrive che Noam Chomsky, sia stato o meno senatore del governo degli Stati Uniti, è irrilevante per chi voglia essere medico. E poi, è vero che il riassorbimento del glucosio avviene nel tubulo prossimale e non nella capsula di Bowman o nell'ansa di Henle, ma non c'era bisogno che i ragazzi lo sapessero. Adesso avranno 6 anni di tempo per impararlo. I test di matematica e fisica erano facili, ma le 4 partite a carte a casa dei nonni di 4 bambini con il premio in caramelle e altre cose del genere sono rompicapi senza senso. Chi ha fatto bene il liceo ce la farà comunque, ma ce la faranno anche i professionisti del quiz, quelli che hanno puntato tutto su Alpha Test. Negli Stati Uniti, per essere ammessi a una scuola di medicina, bisogna aver fatto bene il liceo e serve una lettera di raccomandazione, ma non fraintendetemi, si tratta di una lettera con cui gli insegnanti del liceo ti raccomandano, tra virgolette, perché conoscono il tuo valore e pensano che potresti essere la persona giusta. E poi devi saper scrivere di te stesso, delle tue motivazioni. Infine c'è l'intervista. Insomma, ci si parla a questi ragazzi, li si vuole conoscere, sapere se sono disponibili a studiare sempre per tutta la vita, se sa mettere in rapporto tra loro fenomeni diversi e trovarci un filo conduttore, se sono portati a parlare con gli ammalati, ascoltarli, se avrà la forza di star vicino a chi soffre, a chi muore. Quasi 9 su 10 di quelli che ieri hanno fatto il test resteranno fuori. Qualcuno di loro avrebbe potuto essere un bravo medico. Ma noi, che non diamo alcun valore al voto di maturità e fondiamo tutto sui quiz dei libri di Alpha Test, non lo sapremo mai. Così Giuseppe Remuzzi sul Corriere della Sera. Ma ogni anno, ripeto, ecco, il Messaggero dedica 2 pagine sugli studenti che bocciano i quiz, solo domande trabocchetto. Poi in genere funziona così: chi passa approva i quiz e chi non passa li boccia. Mi piace questa massima filosofica, cioè chi è andato male dice che i test erano sbagliati e chi ripasserà dice che erano giusti. Vabbè, a proposito di questioni mediche, ma anche se sono questioni più che mediche, etiche e umane, è il secondo caso in pochi giorni di una assoluzione per una coppia di coniugi che sono andati in India, in questo caso all'estero. Noi ne abbiamo parlato la scorsa settimana o 2 settimane fa di una coppia che è andata in Ucraina. In questo caso la coppia è andata in India per diventare genitori e la madre è ricorsa all'utilizzo dell'utero in affitto, cioè la gravidanza portata avanti da un'altra donna. Utero in affitto in India, la coppia italiana viene assolta a metà. A metà perché è stata condannata a 1 anno e 4 mesi per dichiarazioni mendaci rilasciate dalle autorità italiane, cioè sono arrivati in Italia dicendo che il figlio era proprio loro. In realtà però la vicenda etica, e cioè la causa per alterazione di stato alla questione anagrafica, sono stati assolti perché il giudice in questo caso dice che definire la maternità ormai è controverso con tutte le novità tecnologiche che ci sono anche per diventare genitori, e dunque questa coppia, lei 54 anni, tra l'altro era rimasta sterile per una malattia, un tumore curato poi con radio e chemioterapia, lui 48 anni, sono andati in India perché volevano a tutti i costi avere un figlio con il seme del padre, ma gli ovociti di una donatrice anonima. Utero in affitto, una pratica illegale in Italia, invece consentita in alcuni paesi al mondo, consentita dalla tecnica scientifica e dalla scienza, e la vicenda si è conclusa con la soluzione. Utero in affitto in India, coppia assolta, questo è il titolo anche di Repubblica, pagina 19. Il Tribunale di Milano ormai riconosce la definizione di maternità, ormai è controversa perché la tecnologia mette il diritto con le spalle al muro. E questa è un'altra notizia che vi volevo dare, come un'intervista imperdibile che Stefano Zurlo fa a proposito di medicina all'ex medico, ex onorevole e medico Di Virgilio, Domenico Di Virgilio, che fa un'intervista a pagina 8 e dice: i politici si ammalano troppo spesso. Perché? Perché stanno sempre seduti lì, sugli scranni del Parlamento. Eccolo allora, i politici si ammalano, sono troppo tempo seduti e magnano, s'abboffano, magnano alla buvette, cioè al ristorante della Camera. Intanto questo deputato dice: dopo 5 anni come minimo inchiodati lì al banco di Montecitorio, i deputati hanno le vene varicose. bisognerebbe piazzare almeno una pedaliera sotto la sedia di ciascun rappresentante, oppure istituire l'obbligo del contapassi, bisogna muoversi, camminare almeno 5-6 km al giorno, invece stanno sempre lì, stanno lì, e poi sono sedentari e si abbuffano. Ne ho conosciuti e ne ho soccorsi più di uno. Faccia i nomi. No, la privacy. Poi però, di fronte alle insistenti domande di Stefano Zullo, dice: no, faccia i nomi. Scilipoti. Ecco, Scilipoti. Ricordo quando Fini mi ingiunse di aiutarlo perché era svenuto. E lei tentennava? Chiede maliziosamente Stefano Zullo. Ma no, ci mancherebbe, lo aiutai. Che consigli le chiedevano i deputati a lei che è medico? Uno su tutti, gli effetti collaterali del Viagra. Eccolo lì. E poi, insomma, questa considerazione, insomma, magnano, s'abbuffano, stanno lì, fermi, sedentari, e magnano. Questo è un po' quello che pensano anche molti italiani, La politica del magna magna. Va bene, invece Matteo Renzi, come detto, ieri il DEF lo ha presentato con il ministro Padoan e il ministro dell'economia. Ci sono le tasse, soprattutto alle banche, che fanno discutere. Ci sono i tagli per dare gli 80 euro in busta paga in maggio agli italiani, non tutti ma molti italiani. E c'è soprattutto questo atteggiamento di Matteo Renzi. I gufi sono stati smentiti ancora una volta. Questo l'ho anche scritto su Twitter. E da qui ripartiamo dopo la pubblicità. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Sempre l'ascolto, Grandissimo, il Gabibbo è tornato. Un abbraccione, ovviamente. Allora ci vogliamo concentrare sulla decisione del DEF. Questo è successo ieri in conferenza stampa alle 19:30. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha illustrato questo documento di economia e finanza, dicendo le coperture ci sono, ovviamente, dicendo adesso assisterò alla solito balletto, le coperture. Comunque il decreto è quello che permette, per chi guadagna sotto i 25.000 euro, di avere gli 80 euro in più in busta paga, quella che ha definito Renzi una quattordicesima. Aumenti mensili anche per chi percepisce meno di 8.000 euro. Ci sono tantissimi provvedimenti, ovviamente il Sole 24 Ore dedica varie pagine a questo. Per esempio, i dirigenti pubblici non avranno più di 239.000 euro lordi, non più di Giorgio Napolitano potranno guadagnare. Ci saranno le privatizzazioni per 12 miliardi, la tassa sulle banche, ecco, questa è la novità maggiore. Le banche contribuiranno a questa operazione 80 euro in busta paga, con un prelievo sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia, che crescerà dal 12 al 26%. I ricavi saranno destinati al taglio del cuneo fiscale. Ci sarà ancora dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie saranno ricavati 2 miliardi necessari anche alla riduzione dell'IRAP. Il governo infatti vuole intervenire tagliando il cuneo fiscale con l'obiettivo un taglio del 10% annuo, quindi per la metà del 2014 pare al 5%, 2 miliardi. E poi insomma, i vari dettagli sono chiaramente. Davide Colombo racconta per esempio cosa succede alla questione delle banche a pagina 7 sul Sole 24 Ore. In questa composizione di coperture finanziarie previste, totale 6,7 miliardi, entra appunto questo maggior prelievo sulla rivalutazione delle quote di Banca Italia destinate alla vendita. Matteo Renzi fa un colloquio con Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. A pagina 4 lo trovate e lancia questa idea, che ha ribadito questa mattina alle 6:30 su Twitter con l'hashtag alla faccia dei gufi. I gufi sono serviti, scrive Cazzullo, e questo è l'inizio della chiacchierata con Renzi. Ai professionisti della sfiga è andata male anche stavolta, non hanno capito una cosa fondamentale di me: io non sto fermo, appena raggiungo un obiettivo rilancio subito, è così che faremo la rivoluzione. Avevano scritto e detto che avrei tagliato la sanità, e invece no, la sanità non si tocca, però taglio gli stipendi dei dirigenti pubblici e faccio pagare 1 miliardo alle banche. E sa qual è la prossima tappa? Ecco, scrive il Corriere, Renzi rilancia alle 10 di sera e anticipa la prossima tappa. Lanceremo la campagna E tu cosa taglieresti? È una campagna rivolta ai cittadini. Partirà nei prossimi giorni. Chiediamo ai cittadini di segnalare al governo sprechi, enti inutili, complessità burocratiche, privilegi odiosi, pasticci amministrativi, e non sarà una consultazione propagandistica. Daremo risposte, prenderemo provvedimenti concreti. Cominciamo dando l'esempio noi politici. Erano anni che si discuteva di superare Senato le province, adesso ci siamo, i tagli continueranno così, nessun consigliere regionale potrà guadagnare più del sindaco del comune capoluogo, Rimborsopoli è finita, tutto il sistema sarà rivisto radicalmente. Insomma, un Renzi che lancia questa campagna. E tu cosa taglieresti, cari cittadini? Preparatevi. E poi ecco la questione delle banche. Matteo Renzi rievoca l'incontro avuto ieri in mattinata con Antonio Patuelli, ora presidente dell'ABI, e dice a Cazzullo: avreste dovuto vedere la sua faccia quando gli ho detto del miliardo. Non se l'aspettava, nessuno se l'aspettava, e le cose andranno avanti sempre di più, ci sarà un'accelerazione continua. E sono curioso di vedere cosa succede nei prossimi giorni. Mi pregusto le reazioni degli uccelli del malaugurio, quelli che dicevano non ce la fa, non ce la fa, non ci sono le coperture, sono annunci e basta. Le coperture ci sono, e non togliamo i soldi alla povera gente, ma facciamo tirare la cinghia a chi non l'ha mai tirata, a cominciare da politici, banchieri, manager pubblici. Non è populismo, è un dovere morale. Non ci saranno tagli alla sanità, certo interverremo per ridurre gli sprechi e uniformare i costi. E ancora conclude questa intervista, pagina 4, Renzi: mi spiace per coloro che remano contro, anche stavolta sono rimasti delusi, mi dispiace per i benaltristi, quelli per cui il problema è sempre un altro, i problemi sono questi e li attaccheremo uno a uno. E Matteo Renzi insomma lancia l'hashtag, o l'appello se volete, alla faccia dei gufi. Patuelli, presidente dell'ABI, risponde a Stretto Giro di Posta, pagina 3 della Stampa. Effettivamente si dice deluso. Io Renzi lo stimo tanto, racconta intervistato da Paolo Baroni. Ma sta sbagliando. Non aveva raccontato che le tasse non dovevano aumentare? La sua è una mossa miope, una scelta inaccettabile anche dal punto di vista giuridico, perché è retroattiva, visto che va a modificare l'aliquota del 12% inserita come norma generale per tutte le plusvalenze nella legge di stabilità del 2013. Ma voi pagate la campagna sul cosiddetto regalo alle banche che ha accompagnato la conversione del decreto IMU Banca Italia? Chiede La Stampa. Non voglio crederlo, risponde Patuelli. Comunque non mi sembra una motivazione sufficiente per inserire una norma retroattiva in maniera fiscale, mentre ricordo che sempre in quel decreto è stata inserita un'addizionale straordinaria dell'8,5% sull'IRES a carico di banche e assicurazioni. E ora cosa pensate di fare? Risponde Patuelli. Il governo ha solo fatto un annuncio, mentre il decreto sul taglio delle tasse arriverà solo il 18. Spero che da qui ad allora ci sia modo di ragionare soprattutto sul fatto che un provvedimento del genere si andrebbe a colpire banche che quest'anno sono sottoposte agli stress test e all'asset quality review. Dunque serve una tregua fiscale. Questo Patuelli, che dunque reagisce parlando di tassa ingiusta. C'è da dire che la domanda è sempre questa, che io, mi uomo del popolo, uomo ignorante, mi faccio: ma se aumentano le tasse alle banche, poi non è che per caso le banche si rivalgono sui contribuenti, sui correntisti? Non lo so, ma io penso sempre male, penso sempre male. Via via questi pensieri, via i gufi, via la faccia dei gufi. No, bisogna pensare bene alla faccia dei gufi. No, va bene. Intanto mentre il DEF è stato presentato, purtroppo c'è questo dato che invece il Fondo Monetario Internazionale ha reso noto, e cioè crescete meno della Grecia voi, cari italiani. Italia al rallentatore con un mare di disoccupati. Il Fondo Monetario, anche se cautamente, assegna all'economia nazionale una crescita risicata dello 0,6%, inferiore alla stima del DEF, con un piccolo balzo dell'1,1% nel 2015, è pur sempre meno della Grecia. E questo dato il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina, proprio a dire così: ho trovato gli 80 euro ma cresciamo meno della Grecia. Dunque va via i gufi anche lì, insomma bisogna essere ottimisti. In tutto questo invece c'è Silvio Berlusconi. ormai Silvio Berlusconi attende quella che domani è l'udienza per decidere se andrà agli arresti domiciliari oppure affidamento ai servizi sociali. C'è da dire che, sgombriamo il campo dagli equivoci, è probabile che domani, che alle 17 domani c'è l'udienza, non è che domani in serata ci sarà già la decisione, questo viene dato quasi per escluso. Comunque Avvenire ieri ha lanciato l'idea potrebbe assistere anziani disabili. Questa è un'anticipazione che è stata fatta sul sito di Avvenire, ma tutti i dettagli li vedremo tra poco, perché a proposito di anziani voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Eccoci. Pace. Buongiorno, buongiorno, sei sempre più simpatico, devo dire. Questi tuoi lanci sono ogni mattina più effervescenti in qualche modo. Ti piacciono? Guarda, sono emozionato. Li studio dalle 4 del mattino, mi sveglio alle 4, un'ora prima per studiare questo lancio, certo. Te lo prepari, ci metto con i tecnici davanti allo specchio, sì. Vabbè, forse abbiamo margini di miglioramento anche noi come il PIL. Volevo dirti, stai leggendo quindi la guida al 70, perché sì. 80 euro li prendi, quindi sì. Diventano 82, sì. Però non vorrei che ti dimenticassi poi delle imposte, quindi oggi con il Sole 24 Ore, la prima delle due guide al 7.30, la prossima sarà mercoledì la prossima settimana, con le novità soprattutto e le scadenze da rispettare, quindi insomma un prodotto non solo per gli esperti, ma anche proprio per chi in qualche modo, e sono milioni, siamo in milioni, deve presentare il 7.30. Poi gli 82 euro sempre di cui sopra, sappi che, scrive oggi Sole 24 Ore, il bonus mobili, cioè gli incentivi fiscali, potrebbero allungarsi fino al 2020, quindi puoi cambiare finalmente, non so, l'armadio, una scrivania, vedi tu, una cucina. Ma dal salone del mobile, via. Prova un po'. Se no, bond greci, cosa ne dici di bond greci, visto che un attimo fa parlavi di Grecia? Perché leggi Vittorio D'Arold sulla Grecia che torna all'emissione di titoli del debito, e insomma ci sono delle cose interessanti, ma non ti voglio anticipare niente, tienitelo a mente così anche con gli ascoltatori. Bond greci, segna bond Miriam, bond greci. Poi dopo. Sì, poi con Miriam ci spiego. Parliamo al bar, insomma, come sempre, i nostri argomenti per attirare belle ragazze. Insomma, quando non parliamo di condominio, ti volevo dire, è importante nella sezione di norme e tributi, le scuole che potranno fare gli ebook in proprio, libri digitali in proprio. Ah, questo è bello. Così, questo dovrebbe consentire soprattutto ai genitori di risparmiare sull'adozione dei libri di testo. C'è tutto un cronoprogramma, insomma un'agenda per dirla in semplice, che deve far partire questa cosa qua. E poi ti volevo dare in finale, guarda, una consolazione, perché la Cassazione, tu guarda da dove ci arriva una mano, viene in soccorso di entrambi. Sì, ha tolto gli scudetti alla Juve. Non è che possiamo fare la fantascienza. Volevo dirti che la Cassazione ha detto che anche se la squadra gioca male, lo sponsor non può chiedere indietro i soldi può rifiutarsi di restare la sponsorizzazione. Perché c'è qualcuno che chiedeva indietro. Caspita, come no? È successo. Leggi l'articolo su Norme e Tributi e capirai. No, perché l'Inter quest'anno rischiava pure di lasciare giù dei soldi, ma ti pare. Beh, non è che voglio dire, il Milan mi sembra che sia portato benissimo. È tornato il campionato, Mauro. 3 vittorie di seguito, ti rendi conto? Adesso che inizia il girone di ritorno, potremo vincere lo scudetto in una cavalcata trionfale. Noi rossoneri. Sto seguendo le competizioni internazionali. Ho visto ieri l'affermazione di José Mourinho, che è sempre nei nostri cuori. È vero, come ha detto lui, ho vinto. Grazie al. Ha avuto ragione anche ieri. Comunque, sappi che stai sereno, insomma, come dicevamo qualche settimana fa. Sì. Siamo sereni, anche se le squadre, come dire, non convincono, non è che lo sponsor può rifiutarsi di fare i soldi. Ottimo. E questo è un momento di serenità. Stai attento ai gufi, questo dice Renzi, ed è il tuo momento, caro Mauro. Starò attentissimo, traffico! Arino Milan, il Peppa Pig dell'informazione! Ma grandissima Peppa Pig! Ma certo, è quello preferito anche dai miei figli! Ma ti abbraccio, un bacione, fantastico! Il Peppa Pig dell'informazione, orgogliosissimo di questa definizione. Allora, E allora eccoci qua, dicevamo di Berlusconi che secondo l'anticipazione ieri del sito di Avvenire, Avvenire.it e oggi riportate anche dal giornale Avvenire, cartaceo, Silvio Berlusconi potrebbe andare a assistere gli anziani, anche anziani disabili, in una struttura dell'Interland milanese, mezza giornata una volta alla settimana. Questa è la proposta che è contenuta nella relazione che l'ufficio esecuzione penale esterna, l'UEPE, ha depositato al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che domani si riunirà appunto alle 17 in udienza e per discutere la richiesta di affidamento ai servizi sociali. Per la verità, su tutti i giornali è riportata questa cosa, non c'è scritto il nome di questa struttura. Io l'ho cercato qua e là, ma non c'è l'indicazione esatta di quale sarebbe questa struttura. L'ipotesi per Berlusconi con gli anziani una volta a settimana, anche Giuseppe Guastella racconta sul Corriere l'attesa ad Arcore con Francesca, i figli, il tablet, la voglia di Berlusconi, scrive il Messaggero, di presentarsi in udienza domani. Mario Aiello racconta che è un braccio di ferro tra lui e gli avvocati. Voglio andare in aula per guardare i giudici negli occhi. No, sarebbe un errore grave, i giudici si sentirebbero sfidati ed è meglio evitare la loro reazione. Questa è la replica degli avvocati Longo, soprattutto l'avvocato Coppi. Avete ragione, incalza l'ex cavaliere, ma tanto il giudizio dei giudici milanesi è sempre peggiore delle peggiori aspettative. Vedrete che mi arresteranno. Ecco, Berlusconi continua a dire, è convinto che alla fine ci saranno i domiciliari, vedrete che mi arresteranno. In realtà vorrebbe andare addirittura, secondo questi racconti, in tribunale, ma viene consigliato di mantenere un profilo più basso dai suoi avvocati. Staremo a vedere. Intanto invece nel Movimento 5 Stelle c'è un po' di fermento, perché è pari alzato il velo dello scontro tra Beppe Grillo e il sindaco di Parma, Pizzarotti, che è forse il sindaco del Movimento 5 Stelle più celebre in Italia, visto che governa in una città importante. Grillo scomunica l'inquieto Pizzarotti, il duello spacca il web, questo titola il Corriere della Sera, pagina 11, lo chiama Capitan Pizza, così Beppe Grillo chiama il sindaco, non è d'accordo con le regole che lo hanno portato a essere sindaco di Parma. Questo ha scritto sul suo blog Beppe Grillo, tanto che Repubblica pare abbia raccolto una sorta di sfogo di Pizzarotti, racconta Tommaso Ciriaco a pagina 10. Parlando con i parlamentari a lui più vicini, ha lasciato un solo stringato messaggio: Beppe vuole che io lasci il movimento, ma non ci faranno saltare i nervi, sarò io a replicare, e la linea è non cedere alle provocazioni. Nessuna dichiarazione pubblica, ma nessuna concessione alle provocazioni. Il titolo dell'articolo di Repubblica è Pizzarotti sfida Grillo, Beppe vuole cacciarmi ma io non mollerò. Questo è il virgolettato che viene attribuito al sindaco di Parma Pizzarotti. Ci sono movimenti, visto che qua è rassegna stampa, si parla di giornali, ci sono dei movimenti proprio per quel che riguarda i giornali e testate anche importanti. E secondo molti quotidiani, secondo il Fatto Quotidiano, secondo il Giornale in prima pagina, soprattutto sono questi due quotidiani che danno risalto alla vicenda, è ormai imminente la possibile fuoriuscita di Ferruccio De Bortoli da direttore del Corriere della Sera, questo per contrasti all'interno della dirigenza, all'interno di RCS, dell'editore. Per il Fatto Quotidiano il titolo è questo: RCS scontro finale, De Bortoli verso l'addio al Corriere. Camilla Conti e Valeria Pacelli raccontano in questo articolo: ancora pochi giorni e il Corriere della Sera cambierà direttore. Lo scontro tra gli azionisti di maggioranza del gruppo RCS, l'amministratore delegato Pietro Scott Iovane e Ferruccio De Bortoli, ormai è al capolinea. Una cosa però è certa: il direttore del Corriere non si dimetterà volontariamente, ma aspetterà che dall'interno del gruppo scrivano nero su bianco che lo vogliono fuori. Tra l'altro ci sarà la prossima puntata di Report di Milena Gabanelli, proprio sulla crisi interna al Corriere, sulla situazione dei conti di RCS. Tra dicembre e gennaio sono stati intervistati anche De Bortoli e Scott Iovane in questa inchiesta. Ai microfoni di Rai 3 non avrebbe nascosto i dissidi lo stesso Scott Iovane, e quindi insomma, secondo tutti i giornali è ormai, secondo i rumors, è imminente questo cambio. Chi sostituirebbe De Bortoli, secondo queste indiscrezioni? Il direttore della Stampa Mario Calabresi. E chi sostituirebbe alla Stampa Mario Calabresi? Il vice direttore attuale Massimo Gramellini, che diventerebbe direttore della Stampa. Questo anche Vittorio Feltri lo scrive in prima pagina del giornale: gli azionisti del Corriere pronti a cacciare De Bortoli. Quindi il giro sarebbe questo: De Bortoli sostituito al Corriere da Calabresi, che lascia la Stampa, e direttore della Stampa diventerebbe Massimo Gramellini. Ma insomma, questi sono rumors, staremo a vedere nei prossimi giorni. A proposito di Stampa, ma è il terzo giorno consecutivo che sono obbligato a dare il premio, la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, proprio alla Stampa, a Roselina Salemi, il titolo di un'intera pagina. È questo: a che età vorresti tornare? Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, a che età vorreste tornare? Il sondaggio sui propri anni migliori. Ah, quegli anni quando avevo 20 anni e non facevo niente. Ah, quando avevo 30. Ah, quell'amore lasciato. Ma chi se ne frega? Ma vivete la vostra vita. Ma chi se ne frega? Una pagina sulla Stampa. Peter Bescapè, a che età vorresti tornare? 5 anni, cioè a un anno fa. Tu, Miriam Lucchetti, a che età vorresti tornare? A 3 anni? No, 21. 21 anni. Vabbè, insomma, un anno fa. E vabbè, così, così. Giornale radio, dai.